diciamo, questa grossa tragedia, tragedia in cui appunto oltre all'incendio dell'ex mobilificio che avevano occupato per ripararsi dal freddo, per avere una vita più dignitosa, comunque per portare avanti le loro rivendicazioni di migranti, non solo appunto c'è stato l'incendio della struttura, ma nell'incendio è morto anche Ali Muse, un rifugiato politico somalo che appunto si era salvato dalle fiamme, hanno distrutto la struttura, ma poi ha deciso di rientrare dentro, e non per una pazzia, semplicemente perché è rientrato perché voleva portare in salvo i documenti, i sudati pezzi di carta a cui la vita di ogni migrante è appesa, pezzi di carta da sudare per ottenere il proprio diritto a esistere qui in Italia, e non solo, da considerare anche che quei pezzi di carta gli avrebbero permesso, magari, o comunque era la sua speranza, il ricongiungimento familiare o la moglie, che è da 2 anni e mezzo in un campo rifugiati, la moglie sempre somala, in un campo rifugiati in Kenya. Quindi la morte di Ali Muse non è un caso, non è una fatalità, ma è una responsabilità di uno Stato, lo Stato italiano, che continua a negare ai migranti, in particolare ai migranti somali, etiopi ed eritrei, lo status di rifugiati politici o di profughi di guerra. E quindi tutta la nostra vicinanza e tutta la nostra solidarietà ai migranti che appunto adesso, dopo un corteo partecipato e molto rabbioso in centro ieri l'altro, hanno ottenuto almeno per il momento di essere ospitati nel palazzetto dello sport proprio qui vicino, qui a Sesto Fiorentino. Quindi tutta la nostra solidarietà agli ex occupanti della zona, e un pensiero a Ali Muse, rifugiato politico somalo morto durante l'incendio della struttura in cui, che aveva occupato. La trasmissione di oggi riguarda in particolar modo, anzi esclusivamente, la musica reggae africana. E quindi, come al solito, vogliamo dare inquadrare un po' quella che è il contesto, la scena musicale reggae africana nel continente stesso. Innanzitutto, a differenza delle altre scene musicali, quelle jazz oppure quelle che rimandano direttamente più alla musica tradizionale di ogni singolo paese africano, il reggae in Africa è diffuso in tutto il continente o quasi, fatte pochissime eccezioni, in particolare il Maghreb e curiosamente l'Etiopia. La scena reggae africana è diffusa dai paesi, dal Senegal, Mali da una parte, fino al Kenya dall'altra parte, e giù fino al Sudafrica. E tra l'altro l'altra particolarità del reggae africano è che quasi esclusivamente, se non esclusivamente, è un reggae consciousness, cioè un reggae proprio perché si è sviluppato o è stato considerato fin dall'inizio universale, come musica universale invece proprio specifica di un paese o di una etnia, è un reggae consciousness, cioè praticamente quasi tutti i testi, quasi tutti, se non tutti, i cantanti, gli esponenti della musica reggae africana portano avanti tematiche di lotta, e in particolare le tematiche dell'unità africana e dello Uhuru, appunto, cioè della libertà, dell'affrancamento dall'apartheid fino a quando c'è stata l'apartheid in Sudafrica, o più in generale dall'affrancamento dal nuovo e dal vecchio colonialismo, sia politico che culturale. Iniziamo quindi con uno degli esponenti maggiori, se non il maggiore esponente di questa scena reggae. Parliamo di Lucky Dube, cantante Lucky Philip Dube, un cantante sudafricano nato a Ermelo nel 64, un piccolo paesino nel Witwatersrand, cioè nel centro del Sudafrica, e ucciso in una circostanze oscure tuttora a Rosettenville, un sobborgo di Johannesburg, durante un tentativo di furto della sua auto. diciamo in circostanze oscure, perché in Sudafrica non tutti credono sia stato ucciso per un semplice furto e molti ipotizzano un omicidio da parte dei nazisti sudafricani, timorosi del suo successo e del suo messaggio di lotta. La prima, tra l'altro, mandiamo in onda la canzone, diciamo, più importante da questo punto di vista, e cioè Eyes of Israel, ed è l'unica pezzo di Lucky Dube che sentiremo stasera, ma prossimamente ci sarà uno speciale tutto su questo importante cantante sudafricano. Dicevamo che la prima canzone, appunto questa canzone, si intitola House of Exile e parla specificatamente, House of Exile, diciamo, non è solo la casa dell'esilio, è sostanzialmente il posto, sta a significare il posto, i posti dove i combattenti dell'African National Congress e del Pan-African Congress si trovavano, erano situati durante la lotta contro l'apartheid. Infatti la canzone stessa inizia un Freedom Fighter Standing on the Mountain in a Foreign Country, cioè combattenti per la libertà che stanno sulle montagne in un paese straniero. E questa appunto è la prima canzone, ve la facciamo subito ascoltare. Freedom fighter standing on a mountain in a foreign country, trying to send a message to his people back in the ghetto. He had a home one time, love of a girl. Standing on the Mountain in Foreign Country, come detto precedentemente, combattenti per la libertà che stanno sulle montagne in una in un paese straniero e che nello specifico erano principalmente Tanzania, Zambia, i cosiddetti paesi della linea di fronte, trying to send a message to his people back in the ghetto, tentano di mandare un messaggio alla loro gente nel ghetto, e anche il coro, I'm still here in the house of exile for the love of the nation, sono qui in esilio per l'amore della nazione, sostanzialmente proprio una dedica, una poesia, diciamo, dedicata a tutti i combattenti per la libertà che fino al 1994 sono usciti dal Sudafrica, si sono stabiliti nei paesi confinanti o anche ancora più lontani, nella Tanzania, in particolare Tanzania, Mozambico, Zambia e Zimbabwe, e da lì, tramite incursioni, viaggi, anche di 1000-1500 km, solo per un'azione, per un'incursione in territorio sudafricano, appunto partivano per combattere, i bianchi e l'apartheid dei bianchi. Era appunto House of the Side di Lucky Dube. Adesso diciamo un attimo i social della radio, potete ascoltarci e scaricare tutti i podcast delle trasmissioni già fatte su wombat.noblogs.org, su Twitter ci trovate a twitter.com/radiowombat.fi, su Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e potete scriverci a posta wombat@insiberia.net. Volevamo anche ripetere gli appuntamenti per i prossimi giorni, cioè, domenica alle ore 11 c'è un incontro al Presidio No Inceneritore. Piantiamo gli alberi e no alle opere nocive, ci sarà anche un mangiare. Il giovedì 19 ci sarà un aperitivo No Borders alla Polveriera e un concerto dei Nuovi Rumori invece al CSA Next Emerson la sera. Il venerdì 20 gennaio ci sarà alla Polveriera la presentazione di Panico Totale, mentre il sabato 21 a CSA Next Emerson ci sarà una serata swing di Lindy Hop con lezioni gratuite di ballo. E il prossimo pezzo è di un artista reggae senegalese, Adioa. È un artista che ha sviluppato una propria musica, diciamo, reggae, una propria caratteristica, mettendo insieme le sonorità zouk e tribali, e in particolare delle sonorità tribali e le percussioni. Appunto, Adioa è originario del Senegal, già da un diverso tempo che è sulla scena, e come dicevamo precedentemente, che cioè la scena reggae africana, è una scena molto combattiva che porta avanti tematiche di liberazione sostanzialmente. Questo pezzo che è estratto dall'album Soweto Man, appunto, si rifà appunto al ghetto nero sudafricano, pur essendo un senegalese, e quindi diciamo un riconoscere l'universalità, diciamo, una lotta di liberazione che riguarda tutti gli africani e tutto il continente africano. Appunto, Adioa, l'LP è Soweto Man, e il titolo del pezzo è Freedom for the Black People. Survival. La volta precedente avevamo parlato delle lotte in Etiopia che si erano scatenate in tutto il paese. Questa volta continuiamo a parlare di Etiopia, ma per un posto in particolare, e cioè la Valle dell'Omo. L'Omo è questo fiume lungo più di 700 chilometri che praticamente attraversa tutta questa valle e va a finire nel lago Turkana, di cui è il principale affluente. L'Etiopia ha fatto dei piani di ristrutturazione, di trasformazione di tipo industriale, prendendo nell'ultimo decennio più di 2 miliardi di dollari all'anno di finanziamenti, e tra cui una parte cospicua anche del nostro paese. Il nostro paese infatti ha investito molto in Etiopia, dalle dighe ai progetti agroindustriali, e con l'Etiopia ha relazioni così buone che all'inizio dell'anno il presidente Sergio Mattarella ha compiuto una visita ufficiale di ben 4 giorni, ricambiata da frequenti visite di delegazioni etiopiche a Roma. Un'azienda italiana, la Salini in Pregilo, ha costruito 2 dighe sul fiume Omo nella regione sud-occidentale d'Etiopia. E l'ultima, nel luglio del 2015, è stato l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a inaugurarla insieme al premier etiopico. L'aveva definita Renzi l'orgoglio italiano. Quello che c'è di strano su questa cosa è che la Valle dell'Omo, da quando ci sono tutti questi lavori tra dighe eccetera, è diventata praticamente off limit per gli osservatori indipendenti, delle organizzazioni internazionali, delle ONG eccetera. La zona infatti, per poterla visitare, serve un permesso speciale, e soltanto che chi l'ha fatto, per esempio 2 giornalisti italiani che volevano fare un reportage sulla cooperazione, pur avendo fatto domanda con mesi di anticipo, non lo hanno ottenuto. Il risultato è che la regione dove lavorano le aziende italiane e dove anche la cooperazione italiana è attiva è vietata ad occhi esterni. Questi 2 giornalisti sono riusciti ugualmente a raccogliere le testimonianze di persone che sono di praticamente deportazioni di intere etnie, di tribù, perché praticamente una grossa parte dei terreni viene data ad aziende agroalimentari con immensi appezzamenti di terra, dove fanno cotone, oppure olio di palma, oppure coltivazioni per biocombustibile. Le popolazioni praticamente sono state espulse dalla terra da cui abitavano da centinaia di anni, e addirittura vengono fatti dei villaggi praticamente apposta per loro nel niente, dove loro praticamente sono completamente dipendono completamente dagli aiuti del governo, perché gli portano in posti dove non hanno accesso a niente, mentre prima invece, abitando intorno al fiume, avevano terre, aravano le terre eccetera, con una coltivazione tradizionale, con un metodo tradizionale, quindi senza recare danno alla natura eccetera. Mentre invece adesso sono stati fatti centinaia di chilometri di canalizzazioni che portano l'acqua a questi appezzamenti immensi e non ne rimane più per le popolazioni. E l'Italia è una delle maggiori responsabili di questa situazione. E questo è appunto uno dei fatti che vi stiamo narrando, di cui vi stiamo parlando rispetto all'Africa, appunto qui su questa trasmissione Uhuru, musica, suoni e fatti dal continente africano. Ricordiamo i riferimenti di Radio Wombat, cioè il sito da cui potete scaricare i podcast e soprattutto ascoltare in streaming le trasmissioni, e c'è wombat.noblogs.org, l'account Twitter, twitter.com/radiowombatfi, l'account Facebook, facebook.com chiaramente /radio-wombat-firenze, e le mail di posta elettronica a cui inviare suggerimenti, notizie, idee. E anche se volete partecipare al contest per il logo della radio, su cui potete trovare le notizie sul sito appunto della radio, appunto la mail è postawombat@insiberia.net, a cui appunto potete mandare idee e suggerimenti, anche appunto il design, diciamo il bozzetto del logo. Continuiamo con la musica reggae africana, e sempre per rimanere in tema di reggae consciousness, reggae cosciente, diciamo, il prossimo pezzo è di uno dei più conosciuti cantanti africani di reggae, Alpha Blondy, e il pezzo è Apartheid is Nazism. America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. This apartheid system is Nazi, them a Nazi. This apartheid system is Nazi, them a Nazi. Thank you. questo era appunto Alpha Blondie, cantante ivoriano molto popolare nell'intera Africa occidentale. Questa appunto era una canzone in inglese, anche se Alpha Blondie canta anche in francese o in Dioula, che è uno delle lingue, dei dialetti principali della regione ivoriana. Ha un proprio gruppo, il Solar System, ma anche ho lavorato con i Wailers. Infatti Alpha Blondie si è trasferito fin dal 76 negli Stati Uniti, dove studiò economia e commercio, e fondò il proprio primo gruppo reggae Moniaca, ma successivamente ritornò ad Abidjan già nel 1981, e lì insieme ad alcuni musicisti ghanesi ha reiniziato a cantare reggae appunto, e ha inciso il suo primo album, Ja Glory, con il quale vinse 3 dischi d'oro. Poi successivamente si è esibito anche in Europa, e la sua musica può essere definita appartenente al genere afro-reggae con influenze africane, europee e caraibiche, anche se i suoi ultimi lavori si orientano verso un genere più roots reggae. Vi proponiamo ora un altro brano, sempre di Alpha Blondie, e appunto il brano che dà il titolo al primo LP, appunto Ja Glory. Only the strong survive themselves. Weak heart dies in misery. Only the strong survive them saying, I don't wanna die in poverty. Give I, give I, give I all I need ya. Keep me warm, ya, ya, you're my son. Give I, give I all I want right now. Keep me high, ya, ya, you're my wine. We'll be right back. Allora, vi volevamo ricordare che Radio Wombat sta cercando il logo per la propria radio. Il logo che deve essere abbastanza inedito, diciamo, e deve essere fatto in modo che possa essere ingrandito o rimpicciolito, ma che rimanga una buona visibilità, e verrà usato per tutto quello che riguarda la radio, cioè volantini, adesivi, eccetera. E il concorso lo potete trovare sempre sul nostro sito wombat.noblogs.org. Però sbrigatevi perché il bando scade il 22 febbraio del 2017. Il prossimo pezzo è appunto proprio per stare a significare che proprio la dice lunga, diciamo, su quello che è l'universalità del reggae in Africa. È un pezzo di un musicista reggae delle Comore, nativo appunto di questa piccolissima isola nel mar, nell'oceano indiano, appunto è nato, ha vissuto e ha cominciato a suonare a Mayotte, che è un'altra un'isola sempre dell'arcipelago delle Comore. Babadi inizia a entrare sulla scena musicale reggae dal 97 con liriche socialmente consapevoli e canta con il Mungodro, che è una miscela, diciamo, dei vari dialetti delle isole Comore, e appunto canta così, musica reggae, suona musica reggae cantando in questa lingua particolare. E anche qui, se elenchiamo i titoli degli album, diciamo, vediamo che come appunto sia importante il reggae per definire e per, diciamo, gridare la libertà da parte degli africani. Il terzo album, per esempio, si intitola Resistant, ed è un, diciamo, in cui vengono, ed è, diciamo, come dire, imperniato sulle percussioni della kwassa, cioè una particolare musica dell'Africa centrale e che si è poi diffusa anche in questo piccolo arcipelago delle Comore. Il pezzo che vi facciamo sentire si intitola Nisurria, appunto che non è direttamente traducibile in una lingua in italiano, proprio perché è una parola che viene direttamente da questa particolare linguaggio, da questo mbogdo parlato nelle isole Comore. Quindi Babadi con Nisurria. Wende wa roho wamba alibalu kweli wasulia ufanamta aki wende wa mtama utifiki chala wa unabali ufanamta wengi tena wala biwa kweli kweli kweli wengi tena wala biwa aki wende wa roho wamba alimtama mwezi Mungu vanu halali suria mufaranta watu wende wa mtama utifikiri chala wa unabali mufaranta wengi tena wala biwa wengi tena wala bia watu wende wa rongo wa maani kama mwezi Mungu wae watu wende wa mtama utifikiri mwezi Mungu nabali mufaranta watu wengi tena wala tia Volevamo ricordarvi il nostro sito da cui potete ascoltarci in diretta oppure scaricare podcast delle trasmissioni passate, wombat.noblogs.org, e poi ci potete seguire su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, su Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze oppure contattarci per email a postawombat@insiberia.net. Facciamo poi un veloce riassunto delle iniziative dei prossimi giorni. Domenica 15 gennaio alle ore 11 c'è un presidio, il presidio No Inceneritore riapre, piantiamo alberi e non grandi opere nocive e inutili nella piana, in via dello Smannoro, dalle 11. Giovedì 19 ci sarà alla Polveriera un aperitivo No Borders, dopo al Nest Emerson un concerto dei Nuovi Rumori. Venerdì 20 alla Polveriera ci sarà la presentazione Panico Totale e il sabato 21 gennaio al Nest Emerson una serata swing l'Indie Hop. E sul sito, oltre a poter ascoltare in streaming le trasmissioni, è possibile scaricare i podcast delle trasmissioni stesse andando appunto nella pagina dedicata, nella pagina apposita, scorrendo, è un riferimento in alto a sinistra del sito, scorrendo, andando in ordine alfabetico ci sono i nomi delle singole trasmissioni, cliccandoci sopra, per esempio cliccandoci su quello scritto URU, vi ritroverete nella pagina in cui sono elencate, da cui potete scaricare tutti i podcast delle trasmissioni di URU. E da Le Comore, questo piccolo arcipelago nell'oceano indiano di Babadi, ci trasferiamo nella Nigeria di Sonny Okosun. Sonny Okosun è un musicista appunto nigeriano leader, è o meglio era leader della Otsiri Band, perché Sonny ci ha lasciato circa 7 anni fa, morto nel 2008, e appunto Sonia Cossù, leader della City Band, una band formata da lui stesso, in cui ha raccolto alcuni dei migliori musicisti nigeriani e di cui nome e cui significato significa appunto il significato di Zidi è questo è il messaggio, e questo appunto la dice lunga di come ancora una volta sta a significare di come il reggae sia appunto una delle venga molto spesso se non esclusivamente utilizzato per portare avanti canzoni di protesta sul panafricanismo, la libertà e le altre questioni sociali si svolgono o vengono portate avanti in Africa. Sonia Cossù canta in una miscela, innanzitutto la sua musica è uno stile musicale che include il reggae, l'highlife, l'afrofunk, gospel e diversi altri, ma non solo. Canta anche in numerosi linguaggi e in particolar modo nei dialetti, nelle lingue delle varie etnie nigeriane, proprio a voler significare l'unità del popolo nigeriano al di là appunto della specificità delle etnie che compongono appunto questo grande paese. Quindi canta in Esan, in Igbo, in Yoruba, in Hausa e chiaramente anche in inglese. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è uno dei pezzi più significativi per comprendere il reggae africano e per comprendere anche Sonny Cossù. È un pezzo che da un lato diciamo è significativo rispetto alla miscela di stili in cui canta Sonny Cossù e quindi anche la sua band, tant'è che ci sono i primi 2-3 minuti che sembrano quasi un'introduzione, ma che in realtà sono uno stile musicale che non è il reggae, e poi successivamente gli ultimi 4-5 minuti, cioè i restanti minuti, è in uno stile reggae. Il pezzo si intitola Fire in Soweto e il testo è veramente, veramente bello, perché menziona quelle che all'epoca in cui è uscito la canzone, le varie nazioni in cui ancora si stava portando avanti la lotta per l'indipendenza dal regime coloniale. Per ogni nazione elenca la specificità diciamo dell'imposizione coloniale e nello stesso momento per ogni nazione sostanzialmente dice anche la parola alle parole di lotta, e tutto messo insieme sta a significare l'importanza dell'unità africana per la liberazione diciamo dei popoli africani dal colonialismo e dal neocolonialismo. Quindi chiudiamo con Faria in Soweto di Sonny Cossù, una canzone bellissima. People, rebel in Zimbabwe,

E questo era il nostro ultimo pezzo, vi lasciamo con la nostra solita sigla, Woka Africa di Manu Dibango. Vi aspettiamo venerdì, sempre qui su Radio Wombat, sempre alla solita ora, alle 9:30 circa.